Tutte le condizioni finora citate devono riunirsi in una settima, considerare sempre la vita alla stregua di quelle condizioni. Con ciò il discepolo si procura la possibilità di dare un'impronta unitaria alla propria vita. Le singole manifestazioni nella vita saranno fra loro in armonia, non in contraddizione. Si troverà così preparato alla calma che gli occorre durante i primi passi nella disciplina occulta. Chi ha volontà seria e leale di adempiere alle condizioni descritte può decidersi a seguire la disciplina occulta. Sarà allora pronto ad accogliere i consigli indicati. A molti, alcuni dei consigli potranno sembrare qualcosa di esteriore. Potrà forse ritenere che la disciplina debba svolgersi con forme meno severe. Comunque, tutto ciò che è interiore si manifesta anche esteriormente. Come un dipinto non esiste finché è soltanto nella mente del pittore, così non può esservi una disciplina occulta senza espressione esteriore. Le severe forme esteriori sono ottenute in poco conto soltanto da chi non sa che esteriormente deve esprimersi l'interiorità. È vero che è lo spirito di una cosa che importa e non la forma. Come però la forma è vacua senza lo spirito, così lo spirito rimarrebbe inerte se non creasse una forma. Le condizioni indicate sono adatte a rendere il discepolo dell'occultismo forte abbastanza da poter soddisfare anche le ulteriori esigenze poste dalla scuola occulta. Se gli mancano quelle condizioni, rimarrà titubante dinanzi ad ogni nuova esigenza. Non potrà allora avere verso gli uomini la fiducia che gli è necessaria. Invece, ogni aspirazione verso la verità deve essere costruita sulla fiducia e sul vero amore umano. Deve essere costruita su di esse, sebbene non scaturisca da esse, ma soltanto dalla forza della propria anima. L'amore umano deve gradatamente estendersi all'amore per tutti gli esseri, anzi per tutta l'esistenza. Chi non adempie le condizioni citate neppure sentirà il completo amore per ogni costruzione, per ogni creazione e la tendenza ad astenersi da qualsiasi annientamento e distruzione come tali. Il discepolo dell'occultismo, sia con le azioni, sia con le parole, i sentimenti e i pensieri, deve diventare incapace di distruggere qualcosa per amore di distruzione. Tutto ciò che è crescita e divenire gli dà gioia. Deve prestarsi ad opera di distruzione nel solo caso in cui da essa e per mezzo di essa favorisca vita novella. Questo non significa che il discepolo debba assistere impassibile al trionfo del male. Perfino nel male deve però cercare gli aspetti che gli permettono di trasformarlo in bene. Si renderà sempre più conto che il miglior modo di combattere il male e l'imperfezione è la creazione del bene e della perfezione. Il discepolo sa che nulla si può creare dal nulla, ma che l'imperfetto può essere trasformato in perfetto. Chi sviluppa in sé la tendenza a creare trova ben presto la capacità di comportarsi giustamente di fronte al male. Chi si avvia alla disciplina occulta deve rendersi chiaramente conto che essa deve servire ad edificare e non a distruggere. Di conseguenza, deve avere la volontà di dedicarsi ad un lavoro leale e disinteressato, senza desiderio di criticare o di distruggere. Deve essere capace di devozione, perché bisogna imparare ciò che ancora non si sa. Bisogna guardare con devozione ciò che si rivela. Lavoro e devozione sono i sentimenti fondamentali che la disciplina occulta esige dal discepolo. Alcuni si accorgeranno di non progredire nella disciplina per quanto siano convinti di avervi dedicato lavoro indefesso. Ciò dipende dal fatto di non aver compreso che cosa si debba intendere per lavoro e devozione. Minimi sono i risultati del lavoro quando è compiuto per desiderio di successo, così come l'apprendimento seguito senza devozione reca poco vantaggio. Fa progredire soltanto l'amore per il lavoro, non l'amore per il risultato. Se il discepolo cerca di sviluppare pensieri sani e un criterio giusto, non deve turbare la sua devozione col dubbio e la diffidenza. Non implica affatto una servile rinuncia all'indipendenza del proprio giudizio quando si riceve un'opinione diversa dalla propria, ma di portarla incontro calma e benevolenza. Chi è arrivato ad un certo grado di conoscenza sa di non averlo raggiunto per virtù di un ostinato giudizio personale, ma per aver ascoltato ed elaborato tutto con calma. Bisogna sempre tenere presente che non si impara ciò che si può già giudicare. Se dunque si vuol soltanto giudicare, non si può più imparare. Nella disciplina occulta il problema è però imparare. Occorre avere assolutamente volontà di apprendere. Se non si può comprendere qualcosa, è meglio non esprimere alcun giudizio anziché una condanna. Comprenderemo in seguito, a tempo giusto. Quanto più in alto il discepolo sale i gradini della conoscenza, tanto più gli è necessaria la facoltà di ascoltare con devozione e calma. Ogni conoscenza della verità, ogni vivere ed agire nel mondo dello spirito, nelle regioni superiori, diventa sottile e delicato in confronto all'attività dell'ordinaria intelligenza e della vita nel mondo fisico. Più si allargano gli interessi dell'uomo, più sono delicati i compiti che gli sono assegnati. Questa, appunto, è la ragione per cui, nei riguardi delle regioni superiori, si arriva a opinioni e punti di vista così diversi. Anche sulle verità superiori vi è una realtà unica, indipendente. Vi si può arrivare se grazie al lavoro e alla devozione ci si è elevati tanto da poter scorgere realmente la verità. Ad una verità diversa dall'unica vera potrà arrivare soltanto chi, per non essere preparato a sufficienza, giudichi alla stregua dei suoi preconcetti, delle sue idee abituali e così via. Come vi è soltanto un'opinione per un teorema di matematica, così è per le cose dei mondi superiori. Bisogna però prima prepararsi al fine di arrivare a tale opinione. Riflettendo su tutto ciò, le condizioni del maestro di occultismo non sorprenderebbero nessuno. È giustissimo che la verità e la vita superiore risiedono in ogni uomo e che ognuno di per sé può e deve trovarle. Giacciono però nel fondo dell'anima e non è possibile estrarvele se non dopo aver eliminato tutti gli ostacoli. I consigli su come ci si debba comportare possono essere dati soltanto da chi ha esperienza nella scienza occulta. La scienza occulta dà tali consigli. A nessuno essa impone una verità, non proclama dogma alcuno, ma indica una via. Forse però soltanto dopo molte incarnazioni chiunque potrebbe trovare questa via da solo, ma ciò che si acquista con la disciplina occulta abbrevia il cammino. Grazie ad essa si arriva più presto ad un punto da cui si può collaborare nei mondi in cui la salvezza e l'evoluzione degli uomini vengono favorite dal lavoro spirituale. Così sono indicate le prime cose che si possono comunicare per conseguire esperienze nei mondi superiori. Nel prossimo video ne verranno mostrate altre per rendersi conto di che cosa si svolge durante tale evoluzione nelle parti costitutive superiori della natura umana, nell'organismo animico o corpo astrale e nello spirito o corpo mentale. Così queste comunicazioni saranno messe in una nuova luce e sarà possibile penetrare in esse in un senso più profondo.